Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona domenica, cari gastronauti. Ebbene, oggi vi darò qualche indirizzo completamente nuovo dove magari andare a pranzare. Non vi manderò in un ristorante, ma vi manderò su qualche camion o su qualche apecar. Ebbene, forse avete già capito che stiamo parlando di questo fenomeno in grande crescita, che sono i food truck o in italiano gli apecar. Ora poi spiegheremo anche di che cosa si tratta per chi ancora non li avesse notati magari in qualche festa, in giro per l'Italia, in qualche evento gastronomico. Ma è un fenomeno in grande tendenza, appunto, di servire dei prodotti particolari, territoriali, cibo di strada in qualche caso, ma anche in qualche altro caso piatti addirittura stellati. Ma diciamo che questa realtà si vedrà anche chi andrà a visitare l'Expo, perché lì ci sarà una rappresentanza. Poi ora man mano ve la faremo scoprire. Quindi cominciamo questo viaggio, cominciamo questo itinerario in questo fenomeno che è veramente cresciuto. È un fenomeno che nasce dagli Stati Uniti. In alcune città americane ci sono delle manifestazioni che prevedono 100 di questi truck food, ma addirittura, e qui vi do una notizia, che il padiglione degli Stati Uniti dentro l'Expo sarà rappresentato da 6 enormi truck food che serviranno appunto cibo americano, ma in maniera particolare, appunto, da un camion, come anche tanto altro cibo italiano che ormai viene servito in tutta Italia. Devo riconoscere a questo fenomeno anche una peculiarità interessante, che è un modo di conoscere le peculiarità locali, il cibo di strada locale. Ma cominciamo questo viaggio e lo voglio proprio iniziare da chi sarà dentro l'Expo fra qualche giorno. Buongiorno a Antonio Dell'Ermo, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti, grazie per averci contattato. Bello e buono si chiama il tuo apecar. E allora, Antonio, la prima cosa che ti voglio chiedere: cosa servirai e cosa servi normalmente dal tuo apecar? Il nostro apecar è specializzato praticamente sulla pizza e tutti i derivati della pizza. Praticamente la pizza è il cibo per eccellenza da strada napoletano. Si parte dalla famosissima e classica pizza al portafoglio, detta così proprio per il modo in cui viene servita e poi consumata dalla persona, in quanto viene piegata in quattro proprio come un vero libretto, e questa è proprio un'eccellenza napoletana. Inoltre serviamo un'altra particolarità molto famosa, è la pizza fritta. Praticamente è una pizza chiusa, ripiena, e che poi viene fritto in olio bollente live per strada. E questo sono una sorta di tradizione che si può trovare solo nei vicoli di Napoli, dove più tradizionali, dove si respira la storia, i profumi, i sapori e le tecniche di cottura che sono andati via via dimenticate per nuove ricette, nuove abitudini dei consumatori, sai. Mi ricordo mio nonno che mi raccontava della pizza fritta e io da piccolo andavo al McDonald's, quindi è chiaro che sono un po' cambiato. Certo, sono cambiati i temi, hai cambiato abitudini. Senti Antonio, ma tu prima cosa facevi? Cioè hai iniziato a fare questo mestiere da quando? No, praticamente tutto è nato così. Io sono uno studente laureato con doppia laurea in Bocconi, in Università Bocconi. Ho 30 anni e mi sono trasferito a Milano nel 2003. Praticamente da piccolo ho sempre seguito il mio nonno e i suoi fratelli che giravano tra la provincia e i paesini di Napoli per vendere sulle apecar le pizze fritte o le cosiddette pizze a portafoglio. Però mia mamma non ha mai voluto che continuassi questa strada, perché comunque è un lavoro molto faticoso, sei esposto all'intemperie, e ci ha fatto studiare. Insomma, quindi senza di lei non... E poi sei tornato alle origini. Comunque complimenti, con doppia laurea. No, poi mi sono praticamente nel 2008 ho finito la mia seconda laurea e comunque ho iniziato a lavorare in banca a 20 anni, quindi nella parte, diciamo, finanziaria delle banche, e poi a 26 anni sono riuscito finalmente ad avere un piccolo gruzzoletto simbolico di 10.000 euro e ho ripreso una vecchia apecar che mio nonno aveva dimenticato, perché purtroppo l'abbiamo perso, l'ho rimessa in sesto e l'ho portata a Milano e ho iniziato a fare le pizze per strada. Bene. Ti direi che alcuni anni fa ero visto un po' come un extraterrestre, perché sai, arrivi con un apecar a Milano, era comunque sconosciuto come lavoro, Questo è un lavoro prettamente siciliano, palermitano oppure napoletano. Certo, sicuramente è un lavoro soprattutto che era nei mercati, soprattutto nei mercati napoletani e del sud, però si sta sviluppando molto anche al nord. Ma io voglio chiedere a Andrea Carletti, che è dello Street Food Mobile, credo che sia il nome della sua società, che è un po' il padre di tutta questa generazione di app e car che si trovano in giro per l'Italia. Buongiorno Carletti. Buongiorno Davide, ciao. Grazie per il padre dello Street Food Mobile. Effettivamente noi siamo stati i primi a modificare le app già ormai 10 anni fa, come risposta esattamente al food truck americano in Italia, attraverso poi l'Inghilterra, dove si recepisce in maniera un po' più diretta e un po' più veloce lo stile di vita americano, gli usi e i costumi. In Italia, dicevo, sta arrivando adesso l'ondata dello street food. Noi ormai da appunto 10 anni che lavoriamo su questo tema e abbiamo sviluppato questo concetto, che poi è proprio la risposta attraverso un design tipicamente italiano. Made in Italy, italiano. 1948 nasce, l'app nasce nel 1948, quindi sicuramente è veramente un modello del Made in Italy. Questo è un modo anche di fare comunicazione dello style italiano, sicuramente. Senti, volevo chiederti questo: la grande evoluzione è avvenuta negli ultimi 3-4 anni, immagino. Giusto, negli ultimi 3-4 anni. Probabilmente anche la necessità e anche questa crisi, devo dire la verità, che sta invadendo poi l'Europa e di conseguenza anche l'Italia, fa sì che moltissimi giovani, non è il caso di Antonio, che è un caso tipico di genialità, perché lui fa il broker fino alle 5 del pomeriggio e dalle 6 poi diventa ristoratore. Ah, questo non ce l'ha detto, non ce l'ha detto Antonio. È un caso unico al mondo, ma lui è un grande amico, è un grande cliente mio, ma dunque diciamo che al di là di Antonio, per molti ragazzi, molti giovani, questo costituisce un ottimo modo per iniziare, perché rispetto ad installarsi in un ristorante, in un caffè o in un'attività dentro un luogo fisso, l'idea di poter andare incontro al cliente, l'idea di poter girare e di essere mobili, dunque portare per l'Italia le proprie tipicità, le proprie conoscenze, il proprio know-how rispetto alle ricette, rispetto ai prodotti, e dunque questo facilita anche l'avvio di un'attività. Certo. Poi nel caso in cui le cose vadano bene, allora poi qualche cliente, moltissimi, decidono di installarsi anche in luoghi fissi. Ecco, però si parte dalla strada, un po' come si usa negli Stati Uniti. Certo. Grazie Andrea Carletti. Allora vorrei ricordare che se trovate l'app car Bello e Buono, ricordatevi che avete di fronte un bilaureato alla Bocconi. Grazie Andrea Carletti e Antonio Dell'Ermo, lo ripeto, Bello e Buono, che sarà anche all'Expo. Lina alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta tutte le domeniche alle 17, dopo la fine delle partite, arriviamo noi per raccontarvele, farvi sentire. C'è anche la musica. Cioè, siamo venuti a dare fastidio a Capuano. Sempre tu. Io continuo a dare i risultati, a sentire gli ascoltatori, avere grandi ospiti. Una poi vita se voi ci siete. Da mediano, perché ospiteremo sia i mediani che però anche i trequartisti, i registi e i grandi protagonisti del calcio e dello sport. Ci sono anche gli altri sport. Sì, ci sono anche gli altri sport, ma i numeri 10 e le bandiere non esistono più. Sì, altri sport con moderazione. Anche le mezze stagioni. Tutti convocati in weekend, tutte le domeniche alle 17. Ciao a tutti, sono Alex Del Piero. Anche in India, qua sul Gange, ascoltiamo la domenica pomeriggio. Tutti convocati weekend. C'è anche il mio passerotto. Ciao. Il Gastronauta, l'Italia del cibo. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. Vi immaginate Piazza Grande a Bologna, ricca, piena di ape car, ricca di truck food? Bene, magari non sarà mai permesso, ma in quante piazze in Italia ormai si vedono le ape car o dei camioncini completamente riadattati dove si servono cibi di strada oppure cibi territoriali? L'ho detto prima, in questo momento diciamo che questo mezzo serve anche per distribuire cultura, cultura materiale italiana, che è quella data appunto dal cibo di tradizione. Ma continuiamo questo viaggio che abbiamo intrapreso andando a scoprire anche le storie di chi sta dietro questi truck food, oppure, come dicevo, dell'ape car, dipende da caso a caso. Bene, andiamo da Basulon Truck Food di Codogno, in Lombardia. Buongiorno a Pietro Mosconi. Buongiorno. Mosconi, buongiorno. Allora, cosa serve lei? Lei ha un ape car o ha un truck food? No, è una vecchia autogastronomia, è un camioncino tedesco che è stato portato in Italia e ho riadattato per la cucina, però era allestito per la vendita più che altro. Ecco, e lei dentro serve hamburger, vero? Sì, sì, principalmente hamburger e anche qualche altro prodotto tipico della zona, cioè come la raspadura ad esempio, che è grana spogliato con una lama in sfoglie sottilissime. Quindi siamo nell'Odigiano, insomma, perché questo è il prodotto tipico dell'Odigiano. Ma quindi hamburger e graspadura, poi anche qualche altro prodotto? Sì, serviamo anche dei twister di pancetta, cioè della pancetta rotolata intorno a uno stecchino, come se fosse un arrosticino, insomma, e fatta alla griglia. Prodotti principalmente a base di carne, comunque. Senta Pietro, ma lei prima di fare questo mestiere, se lo fa a tempo pieno o a part time, questo non lo so, ma ce lo spiega, cosa faceva? Come le è venuta questa idea? Ma è nata un po' per caso, perché io diciamo che prima ho aperto un birrificio con alcuni amici, successivamente ho preferito uscire dalla società e così in una fase un po' di, diciamo, di pausa, con un amico birraio e cuoco avevamo, diciamo così, accarezzato questo sogno di avere un food truck. Poi si è presentata l'occasione di questo camioncino piuttosto vecchio, ma comunque abbastanza carino come mezzo vintage, e abbiamo deciso di sistemarlo per poter poi servire appunto sia la birra che prodotti della zona, prodotti lodigiani. Senta, ma lei l'ha trasformato lei direttamente o è andato da uno ormai di questi centri specializzati che creano cucine ambulanti? No, in realtà è stata una cosa un po', cioè ci siamo rivolti a un'azienda che si occupava appunto di allestimento, però solo di allestimento di attrezzatura. In realtà poi a livello estetico così l'abbiamo studiato un po' noi. Ho capito. Non era una cosa. Quindi l'avete adattato. Senta, ma l'hamburger ovviamente lo prepara prima, cioè prima di salire sul truck food, e poi lì lo cucina. Per forza, sì. Sì, perché comunque i tempi sono quelli un po' da fast food, cioè, che per cui, ma una sua ricetta particolare, con carne particolare lei fa l'hamburger? Allora, adesso stiamo collaborando con l'associazione macellai della provincia di Lodi. Sono bravissimi, è vero. Sì, no? Sì, sono molto bravi. Hanno appunto redatto un disciplinare per la produzione di un hamburger che si chiama Hamburger Lodigiano, che ha una forma un po' particolare, quadrato, rettangolare, ed è ottenuto con un disciplinare abbastanza rigoroso, e noi vorremmo, diciamo, adesso per il prossimo evento serviremo questo hamburger, però è una cosa nata da poco. Quindi è carne autoctona, insomma, della provincia, immagino. Sì. Okay. Rimanga con noi perché ora scivoliamo da un'altra parte, andiamo da addirittura un... Io posso chiamare uno chef mobile, perché ormai tutti si chiamano chef, perché no? Chiamare anche Lorenzo Vaccari del suo truck food che si chiama Appetizer. Ape staccato Tizer. Devo dire che inventiva anche sul nome, Vaccari. Ma lei cosa faceva prima, il creativo, il pubblicitario? No, tuttora io mi occupo di pubblicità, però essere sincero, il nome non è stata una mia idea, quindi non mi posso piccare ad averglielo dato, sinceramente. Però complimenti, perché è molto divertente messo in questa maniera. Senta, ma io l'ho chiamata chef perché Mi risulta che lei faccia addirittura cucina a bassa temperatura, è così? Facciamo cucina a bassa temperatura, ma che è, diciamo, siamo un po' unici da questo punto di vista nel panorama per ora, che diciamo dei food truck. Questo ci consente di poter offrire menù sempre vari e non focalizzarci su magari un unico prodotto, perché spesso le api o i food truck vengono identificati per un prodotto simbolo, un prodotto che tende a caratterizzarli, e quindi il fruitore è direttamente votato a quell'ape o quel food truck, perché sa che lì troverà quel prodotto specifico. Senta, ma guardi, dalla regia mi fanno segno, ma cos'è la cucina a bassa temperatura? Gliela vuole spiegare? Certo, dunque, la cucina a bassa temperatura è stata riscoperta in realtà dal barone Rumford nella seconda metà del Settecento. Ha fatto una vita un po' da viaggiatore, scienziato e appassionato di cucina, trasferitosi dal Massachusetts a Londra, all'Inghilterra, ha inventato la zuppa Rumford, che tuttora esiste, cucinata a bassa temperatura, che lui dava ai poveri a titolo gratuito. La bassa temperatura è... non si può chiamare bagnomaria, però diciamo che per spiegarlo meglio posso prenderlo come esempio. Il bagnomaria porta l'acqua a ebollizione e tramite un altro contenitore che fa da filtro, la pietanza all'interno del contenitore si cuoce, si scioglie, viene usato spesso in pasticceria per il cioccolato. Senta, ma lei la usa a 65 gradi? Sto più basso, sto intorno ai 55. Ci vuole un pochino più di tempo, ma il rilascio delle molecole di sapore è migliore. Complimenti per la sua preparazione. Devo dire però che quando si parla di grande cucina, lei fa grande cucina perché i grandi ormai usano quasi tutti bassa temperatura, però lei sa che c'è addirittura uno chef stellato, bistellato, addirittura due stelle, che si chiama Uliassi, Mauro Uliassi di Senigallia, che ha il suo track food, ma non solo, anche a Roma c'è Cristina Boverman, che è un'altra chef stellata, una stella, con il suo Ape Romeo, va in giro appunto offrendo delle specialità sue molto particolari, a cominciare dal pastrami. Quindi diciamo che ormai si sta elevando la cucina dei track food. Ma un'ultima cosa gli volevo chiedere, voi cosa fate, polpette? Ma noi facciamo, ripeto, grazie a Nicola Ferrelli, che in realtà è il nostro chef, perché sì, poi lui è il vero creativo che sta dietro alle nostre ricette che concordiamo. Passiamo dall'hamburger di pura chianina a, per esempio, a Bologna, nel prossimo evento porteremo una spuma di mortadella all'interno del panino, proprio dedicata a Bologna, per esempio. E passiamo alla polpetta, per esempio, dalla carne ma anche alla verdura. Abbiamo fatto uno sformato di verdure, uova e verdure vegetariano, che è andato molto bene, sempre cotto a bassa temperatura. Ho capito. Bene, poi altri eventi, ne nomino uno: Riccione Golosa, 13 e 14 di giugno. Anche lì ci sarà un grande evento che riguarderà tutti i track food e il ape car. Ma voglio tornare un secondo a Pietro Mosconi, perché gli voglio chiedere: ma perché si chiama Basulon il suo track? Il Basulon era la figura che, cioè, nella tradizione locale portava i prodotti alimentari e anche non in giro, cioè li portava per le cascine, alle cascine e alle case. Ah beh, giusto. È il capostipite dei venditori ambulanti, sostanzialmente. Bene, bene, abbiamo capito che appunto è il moderno trasportatore. Grazie a Appetizer di Lorenzo Vaccari e Basulon di Pietro Mosconi. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia. Ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Ombre dei muri, muri dei mai me, donde ne vengi, dove le canne, d'encito du vali, a semo strani, e a netana punto, cotelo a gua. E a Montalas eu quero explodir, o diavolo em seu segue fetonio. Continuiamo su questo viaggio in questo mondo di questi ambulanti del cibo e ambulanti motorizzati rispetto al passato, ovviamente. Bene, forse molti di voi saranno rimasti meravigliati nel sentire che ci sono tra questi conduttori di queste nuove cucine che si muovono bilaureati alla Bocconi, pubblicitari o addirittura chi sa tutto sulla cucina a bassa temperatura. Quindi un mondo veramente tutto da esplorare, non siamo più magari nel mondo degli ambulanti che passavano il cibo. Qui c'è dietro o una strategia di marketing, c'è oppure una conoscenza del cibo che offrono. Pensate che abbiamo sentito parlare di hamburger con disciplinare dei macellai della provincia di Lodi. Bene, un mondo sorprendente, ma io di questo mondo voglio parlare con il direttore mercato EMEA 3-4 ruote, Vincenzo Scardigno. Buongiorno Scardigno. Buongiorno a lei. Volevo chiederle appunto questo fenomeno delle app, dell'app car, che diciamo è arrivato come una fiumana, ultimamente se ne vedono ovunque, un po' la traduzione italiana dei truck food, quelli enormi americani, che avranno grande presenza all'Expo, come ho detto prima, perché il padiglione americano avrà 6 truck food enormi, ma ci saranno anche alcuni app car italiani, di cui uno l'abbiamo sentito, ma un altro ne parleremo fra poco. Un fenomeno veramente dirompente. Certo, intanto colgo l'occasione per dire che siamo qua all'Euro Ape, siamo a Trevi dove si svolge l'annuale Ape Raduno, dove effettivamente vede all'opera una serie di appassionati dell'ape, perché questo fenomeno qua che oggi vede coinvolto il mondo del food in realtà nasce tanti anni fa, nasce 60 anni fa, no? 48, no? 48 mi sembra, no? È nato nel 48 e quindi quest'anno sono 66 anni. Esattamente. Credo sia il veicolo, anzi credo, è sicuro, è il veicolo commerciale, il veicolo da lavoro più longevo del mondo. E insieme all'ape sono nate tantissimi lavori, tantissime attività, tra cui evidentemente l'attività di ambulante in generale, e negli ultimi anni questo fenomeno dello street food, che devo dire in parte non ci ha colto di sorpresa, perché già c'erano delle cose in passato, però ora sta diventando un vero fenomeno di tendenza che, devo dire, stiamo cercando di cogliere al massimo. Si sta sviluppando, l'Italia è stata la prima nazione dove questo è iniziato, e si sta sviluppando in tutta Europa anche, sì. Tenteremo anche la scala in America, però per il momento va bene. Beh, io sono andato a vedere un evento un paio di mesi fa a Parigi, che c'erano diversi diciamo mobili con c'erano Peugeot, c'erano altri, però c'erano anche un paio di ape, quindi sicuramente anche in Francia è già arrivata questa moda. Rimanga con noi Scardigno, perché ora voglio andare a parlare appunto con Filippo Torsello, che ha un Caravan Street Wine. Buongiorno Torsello. Buongiorno a lei. Quindi questo Caravan cos'è? È un Caravan, è un'ape oppure è un altro diciamo mobile diverso? No, in realtà non si tratta di un'ape, è in realtà un carrello rimorchio che noi abbiamo riprogettato e riallestito. Era un carrello che con il mio socio avevamo in un garage abbandonato, pensando a un progetto diciamo low budget, ci siamo serviti di questo carrello, l'abbiamo completamente riallestito, tappezzato di pannelli delle classiche cassette di legno di vino, ed è venuto fuori un mezzo molto originale che si distingue molto da tutte le app che magari sono fatte in maniera molto simile, perché fatte da pochi, diciamo, poche carrozzerie che dunque utilizzano un po' gli stessi format. Questo è un carrello che è un po' unico nel suo genere, come unico al momento anche il prodotto che portiamo in giro, che è il vino Ambasciatore d'Italia. Pensavamo di inserirci in un mondo che è quello dello street food con un prodotto che non c'è, perché storicamente lo street food viene accoppiato alla birra, e quindi abbiamo deciso un po' di riempire questo gap. Ecco, ma quali vini voi portate? Quali vini? Cioè, avete una scelta, avete, così come posso dire, una scelta regionale, oppure spaziate in tutta Italia? Ma i nostri vini vanno dal Trentino alla Sicilia, cercando di in ogni carta vino di rappresentare sempre zone vinicole diverse. La scelta che noi abbiamo fatto è quella di favorire e promuovere produttori giovani under 35, con qualche caso diciamo che sfora i 35 anni, ma è comunque sotto i 40, perché la nostra iniziativa, insomma, è diciamo tra virgolette giovane, e ci piaceva l'idea di promuovere l'entusiasmo e l'imprenditorialità italiana giovane. Quindi abbiamo scelto imprenditori vinicoli di prima generazione che si sono quindi lanciati nel mondo del vino da zero, oppure giovani che continuano un po' le tradizioni di famiglia. Bene, ora andiamo alle pallette di Giorgio, sentiamo se è un'ape. Buongiorno Giorgio Martelli. Buongiorno a voi. Allora Martelli, lei che track ha? Un particolare anche lei, rifatto di sana pianta da un vecchio mezzo, oppure? Io direi che ho forse un mezzo unico, dovuto all'età, no? Ho una vecchia roulotte che è stata allestita come negozio, ma diciamo che nasce come negozio, che i primi negozi mobili si realizzavano con gli chassis delle roulotte. Ho trovato questa roulotte a bassissimo costo, visto il periodo, e l'ho comprata e l'ho sistemata, l'ho arredata come se fosse casa mia. Lei fa olive ascolane, no? Se non erro. Facciamo olive alla Ascolana. Alla Ascolana. Le olive ascolane sono le olive verdi del territorio ascolano. Certo, quindi certo. Intendo precisare questa cosa perché tanti le confondono. Senta Giorgio, ma lei prima che mestiere faceva? Io ne ho fatti diversi di mestieri. Sono partito da avere uno studio di grafica e di pubblicità, poi avevo un centro di assistenza di serratore e poi ho lavorato, ero responsabile di un magazzino di distribuzione bibite, e lì mi sono avvicinato pian pianino alla gastronomia, diciamo. Poi non nascondo che mi piace mangiare e mangiare bene, quindi sono sempre stato molto attento a tante cose. Ecco, ma lei accanto alle olive alla Ascolana serve anche qualcosa da bere, oppure solo olive alla Ascolana? Assolutamente no, io somministro solo ed esclusivamente olive alla Ascolana. Fatte, realizzate qui ad Ascoli completamente a mano. Io spero che la regione le abbia dato, così come posso dire, un riconoscimento per questa promozione. La regione Marche, sì, no, sì. Diciamo che sono stato premiato dalla regione, da una rappresentante del Gambero Rosso Street Food, siamo sulla guida del 2015, e poi siamo stati anche riconosciuti dalle eccellenze italiane. Bene, quindi vuol dire che c'è qualità. Come devo dire una cosa, che io ho assaggiato parecchi momenti diversi di questi track in giro per l'Italia, e devo dire che la qualità è veramente di livello. Non si pensi, caro gastronauta che sei in linea, o caro radioascoltatore, che siano così delle cose raffazzonate. Come dicevo, c'è chi fa addirittura cucina a bassa temperatura. Ma voglio tornare a Scardigno, ma questo boom avevate capito che questa tendenza stava crescendo in maniera veramente imponente? A dire la verità, sì, perché in realtà noi avevamo interrotto per un certo periodo la produzione di questo veicolo qua, Poi devo dire che forti delle pressioni che arrivavano da alcuni, tra l'altro parliamo tutti di start-up, quindi certo, il fenomeno che sta creando tantissimi posti di lavoro è nella categoria che in questo momento forse sta soffrendo di più, che sono i giovani. E infatti se l'età media di quelli che si stanno avvicinando in genere è intorno ai 30 anni, quindi tutti i nuovi che, giovani che si stanno affacciando sul mondo del lavoro e trovano quale soluzione, tra l'altro anche divertente, perché va detto che è anche una di quelle attività più divertenti che si possono fare. Quindi che è successo? Che siamo stati costretti a riprendere la commercializzazione di questo modello, che tra l'altro importiamo parzialmente dall'India, dove abbiamo il più grande stabilimento della Piaggio, e viene poi qui rifinito e venduto in tutta Europa. E devo dire che con grande sorpresa sono cresciuti forse a una velocità maggiore di quello che prevedevamo, però è comunque un fenomeno che abbiamo registriamo già da un paio d'anni, diciamo. Ma io anni fa mi sono abbastanza divertito perché ho diciamo interpretato un cortometraggio tutto su un'ape in giro per la Toscana e presentando i prodotti della Toscana, e devo dire che comunque è faticoso da guidare sulle strade normali, non è così molto semplice, quindi credo che questi spostamenti, so che molti ovviamente si spostano in base, non è che trasferiscono l'ape a centinaia e centinaia di chilometri, però no, non è facile. Ma un'ultima battuta a Torsello, volevo sapere che mestiere faceva lei prima, Torsello. Io ho fatto l'avvocato per tanti anni, per 10 anni in grandi studi milanesi, poi ho deciso di mollare per progetti più affini, diciamo, alla mia... Bene, mancava in questa pittura che stiamo facendo un avvocato, perché ormai abbiamo trovato laureati in economia, abbiamo trovato pubblicitari e anche un avvocato. Linea alla regia, grazie a Vincenzo Scardigno, grazie a Filippo Torsello, grazie a Giorgio Martelli. Linea alla regia, torneremo fra poco. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il gastronauta. L'Italia del cibo. Terra mia, terra mia, com'è bella la puntata. Terra mia, terra mia, com'è bella la guarda. Continuiamo questo viaggio che abbiamo iniziato parlando appunto dei truck food americani che saranno all'Expo, dove serviranno appunto cibo di strada americana, ma poi americano. Siamo arrivati all'ape car, che è un po' la trasformazione italiana di questo grande fenomeno. Certo, abbiamo sentito dai nostri interpellati, che sono appunto delle cucine vaganti, insomma, in giro per il mondo, in giro per l'Italia, soprattutto abbiamo sentito da loro che alcuni hanno rimesso, diciamo, vecchie macchine, le hanno rielaborate e sono nate appunto delle cucine o dei distributori di prodotti. Ebbene, tutto questo fenomeno dei truck food nasce dal cibo di strada, perché molto di quanto viene poi servito appartiene alla cultura dello street food in America e del cibo di strada in Italia, e così pure in Francia e in altri paesi. Ma abbiamo anche scoperto questo mondo molto particolare, che magari vedete in giro per le strade, per le piazze. Ecco, faccio una parentesi, non si tratta di coloro che vedete da anni nell'angolo, magari nell'angolo delle strade fissi oppure allo stadio, i famosi porchettari, che è un mestiere molto antico, però fermo, stabile. Stiamo parlando di un qualcosa che si muove, come, perché questi personaggi vanno da una città all'altra, da una regione all'altra con molta facilità. Ma volevo continuare appunto questo viaggio parlando anche con Emma Marveggio. Ecco, Emma Marveggio cosa ha di particolare? Che si chiama addirittura chat-à-porter, quindi diciamo che in questa definizione c'è già molto, perché qui andiamo sulla tradizione valtellinese. Buongiorno Emma. Buongiorno a lei. Com'è nata l'idea di portare così in giro per l'Italia con un mezzo i suoi piatti valtellinesi? Beh, intanto l'amore per la mia terra. Io sono valtellinese, sono nata a Sondrio e sono a Milano, e questo territorio, che è conosciuto per un sacco di cose, perché il polmone verde della Valtellina è conosciuto anche per i pizzocri, ma gli chat erano ancora da sdoganare, nel senso che i valtellinesi li conoscono bene, e io avevo proprio piacere e voglia, perché trovo che sia un prodotto stupendo da mangiare, da gustare, difficile se si vuole da fare, ma poco conosciuto. Quindi secondo me chat-à-porter, chat in dialetto vuol dire rosto. Ecco Emma, ci vuole spiegare ai nostri radioascoltatori, perché non tutti vanno in vacanza nel suo territorio, eppure anche molti altri che sono in ascolto non sanno esattamente cosa sono gli chat. Intanto gli chat sono realizzati con una pastella di grano saraceno. Qualcuno aggiunge anche farina bianca, noi no, acqua minerale gasata, e viene passato in questa pastella un cubetto di formaggio rigorosamente casera, giovane, buttato nell'olio fritto, si gonfia, prende le sembianze di un bignè salato ovviamente, ma con tutti i riccioli che la pastella fa, lo hanno fatto chiamare chat, che in dialetto valtellinese vuol dire rospo. Quindi è la forma di un rospo, insomma. Sì, però poi muovendolo vengono portate via tutti questi ortelli, e rimane la palla rotonda con all'interno il casera fuso, ovviamente, quindi è una ghiottoneria, ma vera proprio. E sì. Quindi chat-à-porter vuol dire per far diventare di moda il rospo. Senta, ma lei li prepara prima? No, vengono rigorosamente fatti al momento uno a uno, e quando noi siamo nelle manifestazioni o nelle piazze, questo lo si vede benissimo. Usiamo il pentolino come si usa una volta, perché alle friggitrici per noi è possibile, si attaccano, e quindi nel pentolino davanti agli occhi di tutti noi facciamo gli chat a uno, rigorosamente a uno a uno. Bene, rimanga in linea, perché ora vado da un personaggio che ha appunto un mezzo, che addirittura sarà presente anche all'Expo. L'ho detto prima che all'Expo ci saranno diversi track o ape, e quindi chiediamo a Vincenzo Di Fiore, che tra l'altro il suo track, il suo mezzo si chiama Frienfuie. Cosa significa, Vincenzo? Salve. Frienfuie significa friggi e fuggi in napoletano. Quindi frie sta per friggi e fuie per fuggi. E quindi cosa fate? Tutti fritti, immagino. Devo fare una piccola precisazione. Prego. Noi siamo l'azienda che in Expo, come concessionari ufficiali, abbiamo vinto 7 postazioni, per cui abbiamo ben 7 postazioni all'interno di Expo. Risultiamo in questo momento la prima catena on the road per quanto riguarda il discorso dei fritti. Cioè abbiamo cercato, questo è un progetto che nasce con l'idea di mettere insieme sia la parte artigianale, per cui dell'omino insieme alla sua compagna, insieme ad un altro dipendente che possa andare a vedere, insieme a quello che può essere un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti, facendo una catena su ruote. È un po' questa la nostra idea. Per quanto riguarda invece quello che facciamo, inizialmente l'idea era di un prodotto tipicamente napoletano, però visto l'Expo e visto come stanno anche andando il nostro progetto di espansione, perché anche qui poi dopo vi faccio un'altra parentesi, perché stiamo arrivando in Inghilterra con le nostre ape, abbiamo deciso di fare che cosa? Utilizzare le maestrie napoletane, che sono bravissimi sul fritto, ma dei prodotti italiani per eccellenza. Ovvero facciamo delle polpette con la mortadella di Bologna, facciamo delle polpette con il baccalà vicentino, oppure polpette con le olive di Gaeta, e cerchiamo di utilizzare i prodotti della nostra bella terra. Senta Vincenzo, lei prima cosa faceva di mestiere? No, io ancora adesso faccio il consulente aziendale, per cui mi occupo di rischi aziendali e finanziamenti alle imprese. E per passione è nato questo progetto sul food, anche perché la maggior parte dei clienti che seguo sono nel settore dell'agroalimentare. Però sta prendendo così tanto tempo che mi sa che finirò con il fare il food manager, non più il consulente aziendale. Senta, ma questi sette, cioè, non tutti fanno fritto, ci sono anche altri che fanno altri tipi di prodotto? In realtà dei sette, sei faranno esclusivamente fritto, perché abbiamo diverse tipologie, abbiamo molte referenze. Abbiamo delle polpette, abbiamo i famosi calzoni fritti, la famosa pizza fritta, quella che sì, si chiama pizza hot. E poi abbiamo delle tipologie di pasta fritta, che sono i timbali di pasta napoletani. E qui, anche qui, abbiamo fatto delle novità estreme, perché facciamo non la solita pasta fritta, il timbalo di pasta fritta, ma facciamo il timbalo di pasta e patate fritto, il timbalo di pasta e fagioli fritto, per cui abbiamo un po' giocato con la fantasia. Le sei api faranno fritto, un'altra invece, avendo anche una taverna su Capri, cercheremo di portare su quest'ape tutti i prodotti che utilizziamo all'interno della taverna, per cui facciamo la caponata, ovvero la fresella napoletana, e una serie di prodotti campani nostri. Bene, grazie a Vincenzo Di Fiore, grazie a Emma Marveggio, grazie. Ma avete sentito, cari gastronauti, cosa succede qui? Sono tutti professionisti che si sono dedicati a questa attività del cibo. Beh, sta succedendo anche nei locali, diciamo ristoranti o altri tipi di locali che servono cibo senza essere su ruote mobili. Però abbiamo scoperto anche un altro aspetto molto interessante, che in questo caso il cibo di strada è veramente gourmet. Perché avete sentito che il livello non è come l'ambulantato di un tempo, probabilmente ci sono arrivati con altri interessi, hanno capito che bisogna crescere su qualità. E devo dire che per gli assaggi che ho fatto io, insomma, sui carretti che sono andato io ad assaggiare, ho trovato veramente di cose di ottimo livello. Abbiamo finito questo viaggio e quindi, signori, provate i carretti che troverete per strada, e poi magari, se rimanete delusi, scrivetemi a Radio 24. Un caro saluto da Davide Paolini e una buona domenica, una buona continuazione di una domenica serale. A presto, alla prossima settimana.